Va ora in onda Torino, la mia città. Un programma di Marco Ponzi. Qui su Radio Bagualla Marco vi racconta una parte della sua città, di Torino, un luogo un po' particolare oggi. Tu cosa studi? Io? Vado a Palazzo Nuovo, sono iscritto a lettere. È comune sentirsi rispondere a questo modo, a Torino, dagli studenti universitari iscritti alle facoltà umanistiche. Prima si fa riferimento al luogo, all'edificio, e poi si dice il corso di studi. Sì, perché Palazzo Nuovo non è solo la sede dove si frequentano le lezioni o si tengono gli esami, ma anche e soprattutto un segno di appartenenza. È una casa in cui lo studente si identifica. Il nome composto connota già la sua prima anomalia. Solitamente il termine palazzo è seguito dal nome dell'architetto che lo ha progettato, si pensi al Palafuxas, o al nome della famiglia nobile che lo ha abitato, Palazzo Borromeo, o al massimo dalla funzione che andrà a svolgere, vedi il Palagiustizia. Fosse stato questo l'ultimo caso, allora si parlerebbe di palazzo dell'università. Invece, l'aggettivo che lo identifica è alquanto anomalo. Palazzo Nuovo, per l'appunto. Cosa significa nuovo? Una cosa è nuova all'inizio, ma poi non lo è più. Infatti, Palazzo Nuovo è tutto tranne quello. Costruito a metà degli anni 60 del secolo scorso, del passato millennio, oggi è ancora Palazzo Nuovo. L'aggettivo è probabilmente il tributo di riconoscimento alla tecnica sperimentata durante la costruzione, con l'utilizzo di una struttura interamente in acciaio, tra le prime a Torino. Ne nasce un transatlantico, una diga, una sberla di edificio completamente fuori scala rispetto al tessuto edilizio circostante. 9 piani di cemento sotto la mole antonelliana. Bang! Credo che il giorno dell'inaugurazione fosse già vecchio. Oggi il grigiore della costruzione è stato leggermente mitigato da 2 enormi murales che coprono le pareti laterali. Uno di essi è piuttosto significativo. Ritrae una città grigia i cui edifici vengono colorati da delle enormi gocce di colore che piovono dal cielo. Aule, corridoi, scale, ascensori, tutto è cupo. Eppure è luogo di vita, gioia, amore, speranza, entusiasmo. È la giovinezza dei suoi abitanti che lo rende nuovo, sempre. Ecco perché si chiama così. A me ha sempre portato il sorriso, nel senso letterale della parola. Dal primo giorno, e se oggi ripenso a quel momento, ancora vivo quelle piacevoli sensazioni. Ancora mi ritorna il sorriso. Frequentavo il quarto anno in un terribile istituto tecnico. Non mi piaceva nulla, compagni, materie, professori. I peggiori anni della mia vita. Mi recai a Palazzo Nuovo per incontrare un amico. Nell'atrio fui colto dal buon umore. Una sorta di paresi mi stampò in faccia un sorriso da ebete. Sorridevo da solo, senza apparente motivo. Mi rendevo conto che quel sorridere da solo poteva essere un inquietante interrogativo per chi mi incrociasse. Poteva essere interpretato come un evidente segno di squilibrio mentale, un principio di follia, ma non riuscivo ad evitarlo. Perché trovavo quel luogo così gioioso? Cosa c'era di così esilarante? Proseguivo nel corridoio infinito, sorridendo e con questo interrogativo nella testa. Ecco la risposta. Finalmente avevo capito. Erano tutte quelle fanciulle presenti a flotte nell'atrio ad infondermi tanta beatitudine. Ehi, ciao, io, studente maschio tra 313 maschi nel mio istituto tecnico, non potevo credere ai miei occhi. Palazzo Nuovo era come un enorme acquario con tante pescioline che vi nuotavano dentro, ed io non desideravo altro che tuffarmi. Questa è la mia storia, di me e Palazzo Nuovo. Avete ascoltato Torino, la mia città, un programma di Marco Ponzi, sulle note di Treehouse Lullaby, The Wine Whistles.